4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, prova radio 1, 2, 3, prova radio 1, 2, 3, 1, 2, 3, questo non disturba più, sto, hola, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prova radio 1, 2, 3, 1, 2, 3, sto, prova 1, 2, 3, 1, 2, 3, prova radio 1, 2, 3, guarda, hola, 1, 2, 3, 4, 5, prova radio 1, 2, 3, prova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hola, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La bandaglia della merda ti porta qui vicino al cazzo della cagatta. Prova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prova radio 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prova radio 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prova radio 1, 2, 3, prova radio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prova radio 1, 2, 3. Prova radio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3. Mai uscito così, questo va bene, sì, 9:15, il segnale è buono, va bene, va bene, siete riusciti a farla collegare lei da l'alimentatore, va bene, la porta, ma no, glielo vado alla radio, sono radio da museo, per quello glielo vado, capito, quella è una cosa da museo, ma funziona comunque, visto, esce molto bene, esce benissimo, l'ho provata io, quindi già va bene. Cosa stavo dicendo? No, anch'io, sai, ho attaccato l'antenna lì, anzi io non so se va lì l'antenna, ma penso di sì comunque, non so se c'è qualche altro passaggio da fare, boh, non lo so, perché anch'io a ricevere ricevevo, però un po' strano si riceve, boh, non lo so se mi ha toccato qualcosa, ma io non ho toccato niente, l'ho spento, no, non mi interessava. Non mi interessava, però bisogna pentarsi un po', vedere com'è il funzionamento in banda, capito? 37 c'è una radio favolosa, con la microcornetta è eccezionale, ma io mi sono ascoltato l'altra volta e caspita, ho detto, boh, sembra un microfono preamplificato, ma esce veramente bene. Adesso lì bisognerebbe trovare il sistema per metterle una colonnina esterna e usare un altro tipo di microfono per non usare la microcornetta, però ti dirò che la microcornetta funziona bene. Te l'ho detto, no, non li uso io, Mondessa, quella è una cosa che mi hanno dato, ma io non la uso, voi avete il museo e quindi quella va al museo carta, capito? Quella del museo carta. No, la valigia è buona quella, la valigia è buona. E adesso Claudio c'è tutto tu, me. Io non mi è rimasto più niente, tutto tu c'hai. Almeno so che al museo lì sta bene quella roba, io non me ne faccio più niente. A me basta una radio e boh, no, tanto per lo spazio che ho oramai è molto limitato rispetto a prima, quindi ho preferito fare quel passo, sono contento che ce l'avete voi, quella è proprio da museo, quella lì al museo carta è micidiale la radio, così quando la vedo dice ma questa cosa cos'è? Questa è una cosa mitica. Aspetta Claudio un secondo che rispondo al telefono, un minuto solo, già riprendo subito. Ehi, ecco, stavo dicendo niente, va bene, ottimo, quella è 24 volte l'alimentatore, anche la radio è alimentata a 24 volte, cos'è esatto, ti ho detto quello dove c'è scritto 24, scappa gappa, lei già ci riesce, piano piano, non c'è problema. Piano piano già ci riesce, quello è... Guarda, gli sta facendo adesso un muletto, quello non scalda. Beh, illuminare non si può illuminare perché è una radio militare, quindi, però... È un muletto, Quella non c'è problema, quella l'umidità non le fa niente, tranquillo che non le fa niente l'umidità come quell'altra, porca miseria. Ero contento anch'io che appunto così provevamo quella lì, invece si è incasinato tutto e lì è come saltato salvavita, ha creato problemi sia a quella KF che stava provando tuo padre e a quella che ci avevi attaccato tu, capito? Sicuramente è lì il problema, però adesso vediamo se Gianni riesce a metterla a posto. Si vedrà, comunque se ci avete i pezzi già penso non ci siano problemi. Schiaccia bene il sommergibile che si è mancato il radio poco fa. Questa mancanza del radio sta iniziando a preoccuparmi, anche ieri è iniziato a mancare del radio, e poi si è sparito. No, ma lì è qualche corto, è successo qualche corto e ha fatto saltare tutto sicuramente, claro, perché stavi andando benissimo, poi il fatto che sia partito anche il 757, che io so che funzionava, infatti gli avevo detto a Babbo, lo salgo io a prenderlo così lo tengo in funzione io, e invece non abbiamo fatto in tempo, si è bruciato a CPK, non avevo macchina ieri sera, se no sarei salito a prenderlo, perché come ti ho detto, mettendo a posto, svuotando quella roba che ti ho dato oggi, ho trovato il microfono della Iesio che era dietro a tutta quella roba lì, e quindi mi sono ricordato, e tanto di Cagiani, e così uso il 757 suo, capito, per vedere se funziona il microfono, se ci sono problemi, e invece no, non abbiamo fatto il tempo, pazienza, non c'è problema, già lo mette a posto adesso, ma lo spedisce, l'ha spedito, oppure glielo fa quel suo amico. E vabbè, fregate, già si mette a posto, no, non ci ho neanche pensato, il giorno che ti ho portato su quel cofano di radio, non ci ho veramente pensato, perché il microfono l'ho trovato dopo, quell'MD1, capito, l'ho trovato dopo dentro l'armadio, in fondo, vi sono tutte le cose, e quindi ho detto, il microfono della Yes, però Yes non ne ho, poi ho pensato, ho detto, no, c'era già, adesso me lo faccio e così provo se funziona. E invece ieri sera, ti ripeto, non potevo salire, ero senza macchina, in moto, la moto non fa così al buio, capito? Non fa perché l'altra moto non c'ha bagaglietto, non c'ha niente, quindi a mettere la radio non mi fidavo, se non sarei salito anche in moto già, la giornata non era neanche tanto fredda. Però io quando esco con quella moto lì c'ho sempre lo zainettino, capito, quindi non faceva. E vabbè, pazienza, fregatene già. Adesso quando... No, mi ha chiamato Gianni, però c'avevo il telefono silenzioso, sicuramente prima di andare al lavoro. E non ho sentito la chiamata, poi ho provato a chiamare, però non mi ha risposto nessuno a casa. Forse non c'era nessuno. Lo so. È successo anche a me tanti anni fa, no? Purtroppo su quelle cose lì non ci si può comandare, però ci si può stare più attenti, te l'ho spiegato oggi, ci può stare più attenti, perché quell'impiantino lì va fatto un po' meglio, perché se lei appunto pulisce e fa e trova umidità quella ciabatta lì, è chiaro che poi quando vai ad attaccare le radio, con l'assorbimento che c'è, l'umidità è salta tutta in aria, e così è successo, capito? Lo so. E pazienza, dai, fregatene. A che ora rientra, babbo? Già sono qua io, qua, non c'è problema. E lì bisogna vedere cosa è successo. E se non sale di potenza quella radio, bisogna vedere cosa cazzo è successo. Se è entrata qualcosa, qualche tensione sbagliata, non lo so. Non è che me ne intenda molto io, ma il procedimento è quello, se no non c'è potenza. Peccato veramente. infatti ho visto che funziona quella radio, andava molto bene. No, non c'ho, ma neanche minimamente pensando, anche perché no, non è che mi interessi più di tanto. Però mi sono ricordato che ce l'aveva, io ho visto sto microfono, ho detto ma giusto per provare, pensavo, ho detto ce l'ha Gianni. Perché mi sono ricordato, capito? E gliel'ho chiesto ieri quando gli ho mandato il messaggio che appunto gli avevo preparato un altro po' di roba. E vabbè, pazienza, dai. E certo, sarei salito ieri, tutto questo casino sarebbe successo, però ti ripeto, ero senza macchina ieri sera. Ieri mattina ce l'avevo. Ieri mattina ero organizzato, c'avevo la macchina, avevo tutto, poi mi ha mandato un messaggio di non salire perché era successo appunto questo casino e quindi no, non mi sono preoccupato. Non mi sono preoccupato, la macchina l'ho data a mia figlia, ho detto prendi la macchina, tanto a me non mi serve, se no me l'avrei tenuta e sarei salito dopo pranzo a prendermela, capito? Ma la vedi bella? Ehi, a Claudia, fammi telefonare, dai, mi faccio una chiacchierata con lui al telefono. E tu inizi a organizzarti, a mettere a posto quell'altra radio, portale la vecchia, vedo un po' cosa potete fare, ok? Poi ci sentiamo più tardi, dai, già sono qua, ciao anche a Luca, buonasera. Ci sentiamo dopo, Claudia, ok? Ehi, a dopo, dopo. Ehi, a cara, mi sono fatta parlare per la doccia adesso, adesso faccio maletta, ci sentiamo dopo, si sente. Ehi, a dopo, dopo Luca. Ciao anche a Claudio Di Muros. Si avesse allontanato. I famosi e i nostri dovranno pure quello che ci sarà la cosa che mi ha detto per noi. Ora attenzione 10, c'è qualcuno? Attento 10. Ora attenzione 10. Chi è? Chi è? Il più forte, è Beja. Già. Allora, la cosa è affollata. È un bel di sì, io sono uno dei più forti, sono il più forte della Sardegna, uno dei più forti di Sassari. Vabbè, ognuno dice la sua, quindi. E quindi ce ne sono parecchi, dai. Ciao Robert, buonasera. Calmo con i più forti di Sassari, per favore. No, veraghito, siccome c'è sempre detto che i sassaresi sono sempre un po' spacconcelli, di Ziani, mio zio era il più forte della Sardegna e uno dei più forti di Sassari. E come Giovanni Napoli era la bocca più baciata di Porto Torrice, è vero profe. Ciao Claudio, buonasera. Aspetta, mi viene una definizione in sassarese per i pacca garreri. I pacca garreri. I pacca garreri. Avanti Robert, avanti. Va. Già sparito. Cosa? Roberto, ha creato un tunce, è sparito. No, no, no, ho aperto la porta, mi hanno suonato. Ah, ok. Avanti Roberto. Ehi, e pacca carriere, vuol dire spacca la strada, così. Ehi, ehi. Chi c'è poi oltre torre di controllo qua? Ah, voi, io c'è già adesso. Però te ne prendo il botto adesso, diventerò io torre di controllo qua. Claudio, fuggito. A corrente alternata. Che è un bel veloce ha fatto Claudio. Riprendi tu già. Poco a riprendere. Siamo in due, io ho acceso così a strappo e niente, anche oggi una bellissima giornata di sole, manco mai, era ora. Ah, fa anche piacere farsi due passi, anche solo per fare la spesa. Sì, sicuramente, no, è bello, anche le serate stanno allungando, adesso tra un mesetto cambia l'orario, il mese prossimo, per cui avremo un'ora in più di luce, e a parte ci avremo alzare un'ora prima, bisogna abituarsi, perché io ci metterò un mese prima di riabituarmi, però iniziano anche a scaldare un po' di più le giornate, e il tempore della sera è un po' meno freddo la sera. Anche a me mi sballa parecchio il cambiamento d'orario, cazzo, ci metto un po' a... vabbè, quello primaverile non tanto, però quello invernale, cazzo, mi sballa fuori, mi sballa, cazzo, mi manda fuori proprio. Oh, vabbè. Mi dica. Ah, come mai stamattina? Allora, io poco fa stavo usando 15 watt, modulati 20, 22. Ok, adesso ho abbassato a 5 watt, con 5 watt non hai bisogno di attenuarmi. No, così no, così sei perfetto. Ma dimmi, cioè 15 watt, ma cosa vuol dire essere vicini? 15 watt modulati, questo ragazzo è una bestia, con 15 watt in modo da 20-25 watt. Beh, adesso ho messo 5 watt, con 5 watt mi senti normale, senza attenuarmi. Sì, 9 più 55, e ieri con il coso ce ne avrei qualcuno di più, dovrò attenuarti di 20 dB, perfetto, così va benissimo. Con 5 watt può modulare quando ci sei tu, 5 watt, se no mi devi attenuare, allucinante, vabbè, avanti, lo profe, riprendi. Ehi, ehi, la stessa cosa me la fa Bombolo, quando entra, che in alcuni canali proprio sovrasta chi sta parlando. No, io ci vediamo spesso con Roberto, e appunto stamattina mi ha detto così, e quindi ho detto, ma boh, che strano, perché ho lineare, non ne ho, no, non c'è più niente, ho tolto tutto, staccato tutto, c'è il Galaxy, e poi mi è rimasto l'alimentatore PS50 e l'SP430, sto aspettando che arrivi quella radio lì, e basta, capito, ho tolto tutto proprio, ma dimostrabile, ho tanto di fotografie, di filmino, di filmato, non c'è problema. Quando io le cose le uso lo dico, ed è proprio questa radio, è pom pom beh. Vabbè, comunque siccome c'è la potenza regolabile, vabbè, l'ho abbassata da 15, l'ho messa a 5. No, così è perfetto, solo ti dovevo attenuare troppo, cioè saturava il baracchino, non riuscivi a farmelo saturare. L'altro invece non satura quello grosso, però mi sfasci lo smitter, cioè va oltre fondo scala, per cui di lì il problema è lo smitter, qua non è il problema lo smitter, è il problema che saturava parecchio. Ah, ho capito, e quello grosso qua è il Malchevo di Stage? 94. Ma il tuo o il mio? Il tuo, non il mio. Il grande, il 94, quando c'hai anche attaccato, non satura, ti attenuo, l'unico problema è che mi arriva lo smith e batti due giri, e quello non mi voglio rovinare lo strumento. Ah, ma sempre con questa radio sono io, già da un bel po' di tempo, e anche quando arriva l'altra userò sempre questa, non è un problema, capito? Però sto dicendo, lineare non ne ho, è solo proprio un problema di vicinanza, ma poi questo è successo da quando ho tirato su l'antenna, vabbè, perché magari prima era un po' più bassa e attenuava un po' più il segnale, adesso è proprio in pieno, perché dal mio terrazzo è proprio in pieno verso il tuo, ed è per quello che sicuramente è salito anche il segnale, vabbè. Non c'è problema, 5 watt già bastano, già ci sentiamo lo stesso, avanti Gianni. Eia, come si dice, è tutto grasso che cola, ha voglia. il più si mette da parte e lo si usa solo in caso di estrema necessità. Cosa volevo dire? Riguardo. Avete idea di quale sia il prezzo da fusano dell'RG 58? No, io non so, sono secoli che non ne compro, ma penso non più di 35-25 centesimi a metro, usavo il bagaglio a 40 centesimi a metro, Guarda, mi sembra intorno ai 50 centesimi al metro, però tieni presente ce ne sono due di RG58, c'è cioè quello scaccino, che magari lo paghi un po' di meno, e quell'altro un po' migliore. Per pochi centesimi ti conviene prendere, molto lungo la devi fare la tratta. No, voglio mettere una staffa per l'antenna veicolare, quella vecchia PLC800 che c'ho, quella nera, gli faccio una staffa, c'è un altro tubo libero e la voglio piazzare già predisposta nel caso che poi l'altra abbia qualche problema, faccio la connessione al volo, capito? Giusto per quello, ma non servono tantissimi metri di cavo. Perché mentre è un'antenna veicolare, se non c'è una bella massa tu non vai da nessuna parte. Cazzo, vabbè, ce l'avevo attaccata, mi sentivano tutti. Ah, l'hai già provata, ma là c'è una ringhiera, qualcosa. Sì, c'è un bel palo. Cazzo, quest'inverno quando ce l'avevo la boomerang in terra, non stavo modulando con quella. Lo sapevo. Certo. Cazzo, ho iniziato a modulare con quella lì. Mi sentivano anche a Torres. No, pensavo che uscivi sempre con la boomerang prima di questo. No, no, ho avuto un problema con la bua perché mi si era piegato il radiale, ho dovuto fare una modifica. Per non stare a piedi ho piazzato la PLC 800, capito, sul tubo. Ok, vai qua. No, io glielo so, lui ha iniziato con la PLC 800, non pensa, si allontanava assai, no, la vita con questa 6920, con quella là mi sembra che 9-10, quasi 9 più 15. Arriva un bel bene con quell'antenna. E quanti metri però te ne servono già? Quanti metri? No, no, domani mattina, se era giusto per avere orientativamente, per vedere se sapevate la quotazione esatta, capito? Poi magari domani mattina, a fine mattinata, mi avvicino io da Fusaro. Sì, ma più o meno non supera i 50 centesimi a metro comunque. Prendendo anche quello buono, no, non c'è problema, già, capito? Non c'è problema sicuramente. Le prenderò bene che c'è roba al Fornelli. Se non vi rispondo subito, vuol dire mi sono allontanato, ma proprio subito sono qua. Ok. Quanti metri sono di coso, di carta? Di 58 ne ho, forse c'ho qualche spezzo di 213, ma saranno 3-4 metri. No, negativo, no, beh, serve qualche metro in più. No, vabbè, non è... ho chiesto giusto se eravate a conoscenza del prezzo. Dimmi un po', ma la differenza che c'è tra l'LG58 e quello scaccino è quello leggermente migliore. In cosa consiste? Ha una cassa migliore o che cosa? Sì, sì, la treccia, la cassa è molto più fitta, qualcuno c'ha anche il coso, la stagnola sopra, diciamo c'è più materiale, il materiale, la guaina isolante è di qualità migliore. Guarda se c'è l'LG58000 militare, a nome militare c'è una guaina un po' più robusta, costa poco di più, costa, è come 213000 rispetto a 213 normale, costa un po' di più, però c'ha una guaina un po' più robusta, ma se devi fare brevi tratti non è che cambi più di tanto. E guarda, adesso non mi fa di prendermi la briga di misurare la calata che c'ho, ma non sono tantissimi metri. Adesso buce e tutto saranno 12, fai massimo 15 tra pieghe e giri fari, dai. Giusto, ma comodo, non è in tira, è proprio comodo, quindi fai che saranno 15, dai. Vabbè, prendi quello che viene bene anche a mettere il PL poi, perché c'hai quello con poca treccia, viene anche male a infilare, non fa ben contatto, mentre ti prendi quello lì, è molto più comodo da innestare il PL, va anche meglio, tanto c'è poca differenza, dilli quello buono, dilli, con la guaina un po' più robusta e con con la treccia, il rame, diciamo, con la calza un pochettino più fitta, in modo che viene anche meglio a lavorare. Era giusto per farmi una passeggiata, volevo prendere qua a Sassari, perché sennò lo posso anche ordinare tramite internet, ma visto che è disponibile qua lo biglienoghi. Sì, no, come Fusaro già è buono il cavo, c'era anche la GBC, però Fusaro è più comodo, molte volte qualche cosina di meno lo trovi. No, vabbè, ci vado da quando era l'Inapri, da Fusaro, cazzo. Cioè già mi conoscono da quando ero all'Inapri negli anni 80, figurati, bene o male ci sono sempre passato, sono anche per minutaglie, roba piccola, insomma, già mi conoscono. Il cacchetto mi ha mandato un messaggio, mio fratello è morto Bebo Leonardi, te lo ricordi a Bebo? Ma cos'era? Ex allenatore della Torres? Sì, eravamo molto amici, cazzo. Mi ricordo, capelli chiari, giusto? Sì, era capotto, c'ho anche fotografie sue, guarda, se ti racconto delle storie cosa faceva quell'uomo, veniva apposta per me, perché era di una scaramanzia fuori dal mondo. E se vuoi te lo racconto, mi troverai per commemorare la sua di partita, dai, perché mi dispiace, ma non ha perso mio fratello tutte le settimane, tutti i giorni che doveva partire il venerdì, quando partivano fuori il continente veniva il venerdì, quando giocavano in casa veniva il sabato. Loro sono stati la Torres quasi 2 anni, 1 anno e mezzo imbattuti, c'era una coincidenza, una cosa del genere, l'anno che avevano vinto il campionato. Lui veniva tutte le settimane in officina, da me c'era un BMW, Targato Verona. un coupé serie M era. E veniva, ci avevamo un po' di vernice, la macchina sua originale BMW, la macchina era perfetta, uno specchio lucidata sempre bene, e dovevamo mettere una goccia di vernice, dovevamo trovare un angolino, una scheggiatura, una punta di spillo per mettere la goccia di vernice, perché se lui, se non con lui, senza di quello non portava, io dicevo, secondo lui portavo fortuna. Una di non è giunto, se ne è dimenticato, mica hanno preso in casa con l'Alessandria, cacchio era nero, ma ne sono dimenticato, lui era convinto che io li portavo. In televisione, quando è andata a Videolina, ha detto, ma vero, questa storia della scaramanzia, eccetera. E lui ha fatto vedere, ha detto, diciamo di sì. Ho capito. era, diciamo che era una sorta di rituale che ripeteva ogni volta, e chi da voce se ne è dimenticato, e quindi ha associato la cosa a quell'evento, dai. Sì, già lo so, ma poi lui, oltre che andare a me, poi andava alla torre, se l'hai visto, c'è il coso del tennis, il morto, il sex tennis, e di lì doveva prendere per forza uno da quel bicchiere lì, quel campare lì, sempre, tutte le volte. Lo fanno in molti questa cosa qua, eh. Io ho delle fotografie sue, quando era felice, quando avevano vinto il campionato, che per dire ha fatto un gol, lui aveva sempre gli occhiali a specchio, non so, il Oza a specchio, non il Oza, il Reman a specchio, era sempre con quegli occhiali, molto giovanile, romanaccio di quelli tutti, però sempre con la battuta pronta, e non guardava in faccia a nessuno, era di quelle natura che piacciono a me, può essere Maradona, però se tu non fai quello che ti dico, ti negava il lavoro. Vabbè, non ho avuto modo di conoscerlo bene, io me lo ricordo perché all'epoca, quando capitava che dovevamo fare delle interviste sull'acquedotto, capitava spesso che ero io a fare le immagini e le interviste, quindi cioè, c'era quel rapporto di conoscenza così, ma molto, molto superficiale. Per certi tratti, forse per la parlata mi ricordava Mazzone. Hai detto bene, era proprio di quell'epoca lì, quegli allenatori molto antiquati come tipo di gioco, però molto efficace, giocava col libero, cioè gioca zona quasi niente, ce n'era all'epoca, però erano di quelli tosti, cavolo, che si faceva ben volere dai giocatori. Poi c'era all'epoca, c'era Rubato come presidente, non so se tu ricordi Bruno Rubato. A voglia. Un altro grande presidente, forse di quelli che ho conosciuto il miglior presidente che abbiamo mai avuto, proprio un tifoso, uno che l'ha fatto con passione, no come tutti gli altri che sono venuti dopo, l'hanno fatto solo a Fadinà, convinti di Fadinà, e hanno fatto fallire la società 4-5 volte, mi sembra che sia fallita dalla volta che si è andato Rubato ha fatto tutto, pagava tutto, rispettava tutti le regole eccetera eccetera, poi si arrivi gli avventurieri e ne hanno rovinato tutto l'immagine della società. Rubato è stato il vero presidente della Torres, gli altri ci hanno provato con risultati assolutamente non qualificabili. Bruno Rubato è stato il presidente della Torres, gli altri era tutto un giro di mafia, un giro strano, anche se c'è stato l'anno di Rinaldo Cata che hanno fatto qualche risultato, hanno fatto quella cordata, si erano aggregati a quel simpaticone di Muggi, con la Juventus gli dava qualche giocatore buono e hanno rischiato di salire in Serie B, hanno perso la semifinale con l'Ascoli, perché se vincevano quella partita andavano in finale e rischiavano di andare andavano in Serie B, e ce l'aveva la squadra per salire in Serie B, purtroppo nelle due gare una le è andata male, per cui hanno messo tutto. Però il vero presidente, proprio che tu dici il presidente, chi era il presidente? Era Bruno Rubato, non ce ne sono stati, a parte che con con i ragazzi andava in casa, se li portava a casa sua, era un padre per i ragazzi. Sì, per quello che mi ricordo e per quello che so io è stato l'unico, ti ripeto, l'unico presidente di quella società. Sì, anche ci ha rimesso un sacco di soldi all'inizio, poi qualcosina dalla vendita di Zola si è riuscito più o meno a parificare le cose e andare in pareggio, però è uno di quelli che ci ha messo i soldi e ci aveva il modo di metterceli, perché qualcuno faceva il grande e non aveva manco 50 lire per far ballare un gombo, ed è diventato presidente della Torres, così convinto di fare chissà che cosa, e hanno distrutto una squadra prestigiosa, perché dopo di Rubato, morto tutto. Per carità, io mi ricordo salivo con la 7, aspetta, se mi ricordo qualche giocatore, ma ti sto parlando di un bel anni fa. Allora, Trudo, Di Pasquale e poi Gavira. Cazzo, mi sfuggono i nomi. A quell'epoca hanno giocato anche Mario Piga, te lo ricordi Mario Piga, c'era Canessa, Giuseppe Canessa, c'era Coso, vabbè prima quelli altri Rottigli di Marcos, quelli erano più qui, c'era Mario Di Pasquale in porta, poi c'era Duzzi, Cariola, era una bella squadra quella del Favero, adesso me la ricordo la formazione, però c'erano dei giocatori, venivano, c'era Prestigio la Torre, vai a vai invece, Gavanna gioca con la Torre. Sì, sì, era quegli anni lì, dai, quegli anni lì, mi ricordo, salivamo con due o tre amici che abitavano, insomma, vicini di casa, e ogni tanto salivamo a vederci la partita, c'è su che, vabbè, eravamo piccoli, Allora, insomma, lo stadio era sempre pieno, faceva 7-8.000 posti fissi, poi quando c'era una partita importante anche 10.000 ne faceva, e non so pochi meno un campionato di allora Serie D che poi è andato in Serie C, fatto, poi c'è stato il periodo bello quando c'era, parliamo di pubblico, quando c'era Coso, Rinaldo Carta, anche se Mario era un altro tipo di presidente e di dirigenza, però quando c'era il Napoli, Catania, Palermo, io avevo visto tutte quelle partite, Cacro, Gagliari, quando abbiamo battuto il hanno battuto il Catania, il Palermo e il Napoli, io mi ricordo c'erano 10.000 spettatori, una giusta al Palermo 3-0, al Napoli 2-0 e 3-0 al Catania, erano squadre milionarie, Napoli l'aveva preso De Laurentiis, il primo anno di De Laurentiis, Cagliari c'era Ranieri allenatore, cacco, squadroni ma veramente forti, eppure la Torres l'aveva matata a tutti. Ehi, ehi, ehi. Aspetta, vediamo se Claudio è rientrato. Claudio, no, è ancora col grembiule, col grembiule addosso. Vediamo se c'è qualche altro che vuole entrare. Qua sul 10. Oggi tutti muti, tutti a fare i bagni termali sono andati, visto la bella giornata. È probabile, sì, è una bellissima giornata. Proprio bella bella. Ma come ti muovi tu adesso? La moto non ce l'hai più tu già? No, la moto è ferma, adesso mi muovo a piedi. Ma c'è ancora quello, cos'era il Kawasaki, era o Suzuki, lo sai? Eia, sì, è sotto casa. No, ma cos'era, Kawasaki o Suzuki, non me lo ricordo. Kawasaki ZRX 1200R, l'uso replica. Quello famoso, sto parlando, quello mimetico. Ah no, io quello l'ho venduto diversi anni fa, un 750 del 1980. Il padrone era esattamente adesso mi sfugge, quello che vede la Terizzi viene Sioto Pintor, aspetta capitina, mi sfugge adesso il nome. Ah, si trova ancora con la moto? Nigra, ecco Nigra, l'avevo comprata dalla signorita, ce l'aveva in un capannone messa da parte con un telo. No, l'ho venduta qualche anno fa. Ma esiste ancora quella moto? Credo che sia ancora marciante, sì. Ma tu l'hai venduta a mimetica o te l'avevi riveneciata? No, io l'avevo venduta così com'era, era ferma un po' di tempo e poi il nuovo proprietario si è fatto tutti i lavori del caso, dai, sia meccanici che estetici. Anche tu ne avevi fatto qualche lavoretto, mi ricordo. Cazzo, a voglia. No, solo per le cose più complicate la portavo giù dalla Masa. Ci aveva messo le mani la buon'anima di Mauro, che me la seguiva, lui è quella che me la seguiva di più di tutti, in via 4 novembre, quando c'erano cassatine da fare. Poi se c'era qualche cosa di più impegnativo la portavo giù da Nicola e Gianluca. Poverino, capito, tutti e due se sono ammazzati tutti e due, quella famiglia, mamma mia, quanto mi è dispiace, sono amicissimi di mio padre, signor Angelo, eccetera. Adesso da quando è morto più il figlio non si è più fatto vedere. Da poco è scomparso Stefano. Guarda, una tragedia, guarda, quando me l'hanno detto me ne sono cadute le braccia. Già l'altro, perché erano tranquilli i lavoratori, quando me l'hanno detto, non è possibile, hai già due, mica è brutto in una famiglia avere due lutti così. Gloria, mamma mia. E io l'ho visto sul giornale, mi è capitato così di vederlo sul giornale, e niente, non ero in grado di partecipare, non sono andato per, insomma, per motivi che tu puoi ben immaginare, dai. Io lo so, vabbè, cambiamo argomento, ma mi è dispiaciuto un po' perché brava gente, bravi ragazzi, lavoratori, non è di gente sbandata per dire tussici che avevano sogni brutte, questa è una brava gente, lavoratori, quello che mi è dispiaciuto, ho detto, cacchio, non è possibile. Poi il padre, conoscendo il padre che è un omone di quelli pieni di vita, allegro, sempre scherzoso, quando mi trovava tu, lo sai che mi baciava, mi diceva ciao qua là, tuo padre, grandi amici di mio padre. Poi c'era una 500, penso c'ha preparata da lui, non so se l'hai mai vista quella 500. Sì, quella celestina chiara. Ma l'hai mai vista il motore con la macchina? Credo, guarda, non ti voglio dire sciamente, mi ricordo che un periodo lo usava Nicola, non so se era una 500 Giannini. No, la 500 era normale, ma aveva fatto delle modifiche allucinanti. Faceva oltre 160, amico, ma era un mostro. C'è una cosa che tu dici, non è possibile che cammini così tanto. Poi l'aveva fatto tutte le modifiche possibili, c'aveva la marmitta, era abbastanza rumorosa, quella marmitta è tipo stile Abarth, doppio scarico. Ma camminava una cosa esagerata. Poi lui è un grande meccanico, molto preparato. Sono entrato. Eia. Vai, vai già, rispondi. Eia, eia. Allora, l'ultima volta mi ha fatto troppo ridere. L'ultima volta c'eravamo incrociati all'Eurospin a Bredanieta, che stava facendo la spesa con la moglie. Aspetta, come mi, che mi usavo un nomignolo. Ma guarda, io tra una cosa e l'altra, prima di, allora, ogni mattina prima di andare a lavorare passavo lì, rimanevo 20 minuti, una mezz'oretta, mi fumavo una sigaretta e andavo a lavorare ogni mattina, ogni giorno. Ma ti parlo di questa cosa, è durata un bel po' di anni. Infatti poi, quando poi ho smesso di lavorare giù in televisione per tutta una serie di motivi, quindi sai, non passavo più, e quando mi vede è sempre molto, molto cordiale, molto colorito, sai, fare le battute, si ricorda sempre quando gli ho portato il Kawasaki vecchio, ha detto, guarda, mi scoraggiava, non sei di buoni di nai nogri, larga PG, che no, non ne vale la pena, piglia di ghiccio, piglia di ghiaccio. E poi mi ha preso in simpatia per il fatto che ero ostinato e cioè, volevo che fossero loro a metterci le mani, e da lì è nato tutto, dai. Sì, era la sua in gamba, brava gente. Vai, qua. Hai chi stai parlando già? Di Mariani, no? No, qua, di Angelo Masola e i figli che hanno la officina Predanieta. Ah, vabbè, signor Angelo è morto, anche uno dei figli è morto. Non è morto il signor Angelo, chi l'ha detto? Non è morto, non si dice. Quando è morto, i figli tutti e due sono morti, è morta anche, è brutta, dai, lasciamo perdere, non lo diciamo. Chi l'ha detto che è morto? No, così mi hanno detto, ma è morto anche lui, forse questo inverno del 2020. Qua, se è morto me ne cadono le braccia, perché amicissimi sia di mio padre che di me, chi cazzo, c'era una stima per me, perché mi veniva la piscina, dicava sempre a me delle belle cazzo, ma mi sembra, provo a chiedere, ma mi sembra un bel strano, chiedo a mio cugino che lui li sente spesso. Ma non è quello che c'aveva l'officina via Catarocchi, cioè in via 4 novembre? E via 4 novembre, quello lì c'aveva quella piccola lì, e poi se ne hanno fatto un'altra grande a Predanieta. Così mi hanno detto a me, non lo so. E figli quali? Quei due che lavoravano con lui sono morti? Purtroppo, diciamo, morti in un altro modo, però, tutti e due ne sono morti. Ma prima era morto uno, poi anche l'altro, ma di Cipria. Morto, vabbè, non va bene dirlo qua, però immaginati come. Uno era quello che c'aveva il coso giù a Ottava, delle macchine, ti ricordi? C'è quel piazzalone che aveva le macchine, e l'altro che lavorava in officina. Allucinante, io so di uno, si è morto anche l'altro, mi dispiace perché io ci portavo la moto lì, poi non mi trovavo bene, allora portavo da Alessandro lì, da Sandro in via del produttore, capito? E ancora oggi vado sempre da Sandro. Non so cosa dirti, informati, perché a me me l'hanno detto che è morto, signor Masa, non so, me l'ha detto, me l'ha detto proprio Antonello, quello che lavora al Fusaro, che lo conosceva bene perché era una vita lì, non so. se ho capito male io, però mi ha detto che è morto. Avanti già. Eia. Vabbè, a me personalmente per il momento non mi risulta, mi risulta che sia ancora in vita, signor Angelo. No, e vabbè, Mauro e Stefano sono scomparsi, però quello che mi risulta è che il signor Angelo è ancora bello arzillo, dai. Non so, allora avevo capito male io, comunque già mi informo, non ti preoccupare. Mi informo da signor Francesco al Trisbar, che erano molto amici, tutta la notte andavo lì a fare colazione. Signor Masera, quindi signor Angelo. La mattina quando vado a prendere le sigarette e caffè, lo dico al signor Francesco, quello del Tris, padrone del Tris, che hanno più o meno la stessa età, più o meno hanno la stessa età. Avanti, Robè. Allora, signor Masa, signor Angelo del 31, mio babbo del 33, erano quasi coetanei, per quello ci conoscevano da ragazzini, ma quando mi trovava ogni bacio, io stavo a ore parlando in officina, raccontando, tutto quanto, poi era una persona allegra, piena. Infatti mi sembra strano, io da quando è morto il secondo figlio non l'ho più visto in giro, è morto mi sembra l'anno scorso, più o meno all'inizio dell'anno, quando me l'ha detto me ne sono caduto le braccia in terra perché aveva avuto già l'altro lutto dell'altro, sempre per lo stesso motivo. Infatti ho detto cacchio, questa famiglia è scioccata, me l'ha detto mio cugino, perché mio cugino sono amici proprio col figlio, con Gianluca, con Coso, l'altro Mauro, cioè, quando me l'ha detto infatti mi è scioccato. Adesso mi ha mandato un messaggio da Nido, tu ricordi a Bebo Leonardi, Cla? A Bebo sì che me lo ricordo. Dice che è morto, lo stesso grande amico, persona troppo in gamba, purtroppo la vita è così. Va bene, cambiamo argomento, se no fa vedere di multa e non usciamo più. Ok, Gianni, quindi la moto tua l'hai venduta, sempre mimetizzata da MiG 21, cos'era? MiG 21 o 25? No, l'avevo fatta riverniciare verde lime, l'avevo fatta riverniciare verde lime e da un carrozziere di cui non ti dico il nome, e mi ha fatto una bucheria, dopodiché l'ho usata un po', poi l'ho dovuta fermare per causa di forza maggiore, poi l'ho venduta, però era verde lime, verde lime con la fascia bianca sopra. Ho capito. E anche quello tu avevi, cos'era? Un Hornet, cos'era quello che avevi tu? L'Hornet sì, 95 cavalli, poi ho preso il 115. L'avete tenuto poco quello lì, vi pare, no? Sì, no, mi stava creando problemi. C'era un problema all'iniettore, mi stava creando problemi. Allora gliel'avevo versato lì alla Honda, Valdo, e avevo preso il 105 cavalli. No, sono moto che poi sono molto maneggevoli, nel senso, per chi piace il genere, non sono impegnative, sono moto che guidi tranquillo, non devi stare piegato o rilassato. Io ce l'ho sempre quella lì, solo che la uso molto mio genere, ho capito, io non è che la uso molto, io sto sempre con quella piccolina, quella... Anche l'ultima volta che l'ho presa avevo problemi alla schiena, quindi la usa lui, ma è parcheggiata qua sotto e non è che ce l'ha a casa sua, parcheggiata qua sotto, però la usa per spostarsi, ce l'ha sempre lui, diciamo. L'ho presa l'altro giorno che ha fatto una bella giornata, quando è domenica mattina, lunedì mattina, sono mezza mattinata, ho iniziato questo mal di schiena, gli ho detto boh, sarà d'ora la moto, infatti la uso poco io. Avanti già. Eia. Cosa volevo dire? Robè, per concludere, l'avevo data ad un mio amico che insomma voleva iniziare con una motocicletta, insomma, roba vintage da sistemare, da spendere, insomma, non voleva spendere un capitale, quindi ha iniziato con la mia, l'ha tenuta un po' e poi so che l'ha venduta, e lui si è preso, credo, non ti voglio dire cazzate, credo che si abbia preso una Triumph Bonneville, se non sbaglio, ma l'ho visto, l'ultima volta che l'ho visto sarà stato l'anno scorso, boh. E niente, quindi comunque dovrebbe essere dovrebbe essere ancora marciante, non è stata assolutamente rottamata. Stanno rivalutando, infatti un po' di gente se le sta rimettendo in circolazione, eccetera, perché sono molto poco impegnative, poca manutenzione, non hanno grossa cosa, perché non c'è elettronica, sono a carburatori, eccetera. Così mio cugino Franco, che conosci bene, che lui va bene, molto ne ha avuto tante, l'ex moglie ce l'aveva lasciata, la Rosemary, te la ricordi tu, la Ford, l'Honda Ford. Sì, mi ricordo, Roberto. Anche quelle sono belle moto, vai da Roma, lo conosco, ma adesso sì, su, ma c'è anche un'altra moto di quel genere di lì, c'è anche i 6 cilindri. Omar, all'epoca, quando c'era Motoring, non so se c'era ancora quell'attività, aveva praticamente in esposizione, era una vecchia moto usata, ed era praticamente il secondo esemplare, perché erano due, era praticamente una moto che aveva partecipato al Moldoro, ad una gara di durata, preparata praticamente, se non mi ricordo, nell'officina della Bimolta. Il telaio era costruito da un artigiano genovese che allora costruiva i telai per moto da competizione. Aveva un motore Kawasaki Z1000 elaborato con questo telaio in traliccio in tubi rossi. Cazzo, dovevi vedere che cos'era quella, con una carena praticamente, una carena di quelle dell'epoca, molto tondeggiante, cazzo, con questo oblò stile astronauti della NASA, bellissima. Poi io sono riuscito a rintracciare il proprietario, l'ho corteggiato per svariati mesi, prima non me la voleva dare, poi si era deciso a venderla, poi non ci siamo messi d'accordo sul prezzo, anche se era un prototipo, però mi stava chiedendo una follia. Ma quella bianca e rossa, sta dicendo? No, negativo, era verde. Verde, telaio rosso, Geminiani, attrice di tubi. No, perché ne ha uno adesso, lui. Io c'ero ieri, che sono andato perché gli ho buscato una macchina che stava cercando un maggiolone, che dobbiamo fare dei lavori, fare un lavoro allucinante, dai. Già ti darò, quando ti dirò informazioni quando sarà. Ne ho buscato uno tra il gatto Sassari a un prezzo molto molto conveniente. Infatti quando l'ha visto gli dicevo, sono illuminati gli occhi, ho contattato uno, ce l'ha, penso che vada in settimana a portarselo su. Ce n'è una bianco rossa, ma lui c'ha molto di valore, di grande valore. Sì, già mi ricordo qualche bella motocicletta, già me la ricordo, poi non so che se le ha ancora oppure se le ha date, insomma, già aveva qualche bella motoretta, dai. Poi mi ha fatto vedere, c'è un Caballero, tu ricordi il Caballero? A voglia, è che se lo dimentica il Caballero. Regolarità a casa, nuovo fiammate, ne ha tante di moto, ne avrà, boh, io ho messo 30, 40 moto, che ho visto io, poi non so se ne abbia di più. E perché macchine, non le hai visto le macchine che c'ha? No, negativo, le macchine no. Allora, lui ha avuto la Merak della Maserati, una macchina spettacolare, 131 Abarth, 124 Abarth, vabbè, c'era il fratello, ce l'hanno ancora. Lo Sport Abarth è una cosa, non so se te lo ricordi tu, 124, quello che correva, lo Spider Abarth. Poi c'ha un Mercedes che ha più di 400 cavalli, uno di quelli con l'hardtop, una bestia, mi pare sia 6.000 di cilindrata. Poi non parliamo Topolino, altre, ma lui sta sempre prendendo, comprando, vendendo, gira. Ma di moto è una cosa esagerata, c'ha delle BD, c'ha di due Kawasaki Z1300, ti ricordi quelli grandi? Sì, quelli a cardano con la raffreddamento al liquido. Facciamo entrare il Claudio, se no. No, non ti preoccupare, già io mi sono allontanato un attimino, nel frattempo state parlando, c'è un Robanella a Fornelli, adesso aspetto tutto, non c'è problema, riprendi. Eia, è arrivata la pattuglia a prelevare Roberto, dai. Asciuga, sul telefono, poi uno la genera dei carabinieri. Ma tu vedi, quando sono in officina con lui, io che magari sto parlando, no? Con lui, con Danilo, col fratello, eccetera, che lui c'ha il telefono in ufficio, è talmente rimbombante che sente questa sirena quando squilla, che io guardo fuori e dicevo i carabinieri, poi mi ricordo che è il suo telefono. C'è un bel suono, poi bitonare, figurati. L'altra sera, non mi ricordo con chi stavo parlando, ed ero affacciata alla finestra. E, mentre stavo parlando è passata una gazzella. L'interlocutore che ha il telefono ha detto: guarda che questa non è la storia di Roberto, ma è una macchina bella che sta passando sotto a casa. Sono rientrato io. Riprendilo. Ehi, vabbè, non ho sentito il discorso, no, stavamo parlando di Gozo, di Omar, che ha delle bellissime moto, ma c'è anche dei doppioni, perché quelle sei cilindri, ne ha due, quella grossa, sei cilindri, l'ho detto a 1003, ne ha due di quelle, poi c'è un'Honda di quelle, come cacchio si chiama, quell'Honda, quella che bagna una sonora, come si chiama? Il Goldwing, credo che avesse lui. Il Goldwing, quello lì, mi sembra ne ha lo stesso altri due, poi c'è, lui siccome è un grande trialista, non hai mai visto tu facendo trial? Sì, mi ricordo. È un mostro, tu devi vedere cosa fa con quella moto, devi mettere le mani in testa, lui sale sopra le macchine, cioè tipo non è avere la fermo, no, dall'accelerata e sale sopra la capota della macchina, sopra quei cilindri che usano per fare le condutture, di tutto, sopra le rucce, lo devi vedere, è una cosa, penso che sia stato anche campione sardo, ha fatto un sacco di gare lui e vinceva. Sì, era bravo, sì, l'ho conosciuto come trialista, dai, poi. Sai, una volta che metti il culo su una moto impari a conoscere un po' tutti, sia i venditori che i meccanici. E quindi sai, li conosco un po' tutti, dai, nel circondario qua. Bene o male, sai, le cortesie si chiedono un po' a tutti. Poi giustamente come il barbiere di fiducia, il barbiere è uno, e quindi se stanno da togliere agli altri, per carità, uno poi ci si trova bene, ci si affeziona, e niente, questo è quanto. Ma quanti anni ci avete in quella zona, Gianni? Qua la stazione? Ehia, diciamo centro storico, dai. Credo dal 90, inizi anni 90, dai, sì, dal 90, dai. E prima dove abitavo? Prima ero proprio dentro le mura, via Mercato proprio alla testa di Romacato di Ubescio, quindi non ti dico niente. Ho capito, no, per dare moto quando eravamo ragazzini si andava col suo amico Dagno Frauto, lo ricordi tu, Garilli, vendeva i pizzi. E chi se lo dimentica? Solo quanti andava, che era abbastanza economico rispetto ad altri, perché poi c'era Vadilonga qua in via Napoli, però era un po' più affarizza, però lui andavi a trovare le cose che magari non trovavi, raggi, pezzi così che altri non tenevano. Ah, piccolino era di quei negozi antichi, però c'aveva molte cose che magari Vadilonga non teneva, perché c'aveva cose più recenti, c'aveva magari i pezzi di Pulini, i pezzi Pinasco, di moto Vespa, ciao e cose del genere. Poi invece c'aveva anche qualcosa, le vecchie marmitte a spillo teneva, ricordo che aveva comprato un po' di roba da lui, il serpentone, poi vendeva. Sì, mi ricordo. Allora, aspetta, poi vabbè, un altro negozietto, cioè vabbè, lui vendeva soprattutto i motocarri, quelli della Brema, che è in Viale Dante, non so se ti ricordi, però vendeva anche lui parti di ciclomotori, ricambistica, sì, vendeva le Brema, che i motocarri diesel. E poi vabbè, è arrivata la Cosmoto all'inizio, via Diaz, te la ricordi? Sì. E certo che me la ricordo. No, la Brema che non c'entra niente con il Neofrau, però era in via Napoli ad angolo con Coso, quasi con via Catalocchino, e c'era pezzi di moto 50. Infatti io quando ho fatto dei restauri, sino a quando era aperta, avevo comprato un po' di roba, fanaleria, e come si chiama, catene, cose del genere. Lui c'aveva la concessionaria della Brema, però non era il Neofrau mica quello. No, ma io non ho detto che era il Neofrau, ho detto oltre ad il Neofrau c'era praticamente il concessionario della Brema che era in Viale Dante, non so se ti ricordi, e praticamente aveva un piccolo negozio di ricambistica dove oltre a vendere i ricambi dei motocarri vendeva anche pezzi di ricambio, parti di ricambio e roba del genere per ciclomotori, in Viale Dante. Sì, no, lo conosco bene, ma non abitava di lì, poco più giù a 30 metri, per quello che ci andavo spesso, quindi me lo ricordo benissimo, c'erano anche pezzi diciamo di roba che magari in altre parti non trovavi. E mio fratello è iniziato con le biciclette in via Coso, e poi se l'ha spostato vicino dopo Santa Maria, che come si chiama quella via che c'è di lì, dove c'è il mercato, dove c'è stata un periodo l'Officina ai Mariani, che c'è quella specie di di Cortilone, che all'epoca dietro Pino Mu, più avanti di Pino Mu, dove ha bruciato, come si chiama? Quello è l'ex mercato Dofrutticolo, quelle sono le vecchie concerie, il mercato Dofrutticolo là dietro. Come si chiama quella via lì? Non me ne metto, si chiama via dei Cremi, mi pare, può essere. Via Padre Zinano. Via Padre Zinano, hai detto bene, di lì, in quel pezzettino c'è stato un periodo dove Gno Frau, poi l'hanno dato in gestione a questi e poi l'ha finito tutto. E poi c'era che vendeva qualche pezzo, però più che altro erano pezzi, c'è ancora mi sembra, in Viale Umberto, di fronte a Palotto, dove così, Moto Center di più, però c'era una roba per moto grosso e quello. Sì, ci ho comprato della roba. C'era un commesso che ci ha lavorato un sacco di anni, mi ricordo, un po' scuro di Carnagione, che aveva all'epoca aveva un VFR bianco della Honda madre perlata, non so se te lo ricordi, bianco. Non ce l'ho presente adesso, no, ma il proprietario, non so se si trovi ancora, se sia morto, non lo so, era grande amico di mio padre, da giovane, penso che sia, non gli auguro la morte, ma penso con l'età che abbia, sicuramente ci avrà almeno 85 anni, quello lì era già grandicello. No, sto pensando poi agli altri negozi che c'erano, che vendevano pezzi di moto, c'era vabbè Badilonga, poi vabbè c'era la Piaggio, c'era Pano, però quelli avevano più che altro ricambi Piaggio. Poi sono nati tutti gli altri, Tutto Moto, quello che c'è in Valle San Francesco, però lì quegli studi c'erano quelli lì, quello Ennio Frau, mi ricordo che ero piccolino io, e poi Coso, l'altro Badilonga, poi non so se ce n'erano altri. Sì, vabbè, quelli di Umberto è Moto Center, che aveva il negozio di articoli sportivi da un lato e di fronte aveva il negozio degli articoli per motociclisti e ricambi, sì, mi ricordo. Sì, però più che altro vendeva roba per motociclisti evoluti, non per ciclomotori, non c'aveva quasi niente, mi potevi trovare le manopole Tomaselli, trovi quelli le manopole Tomaselli, quelli in caucciù. Sì, quante paia ne ho consumato, cazzo. Poi vabbè, oltre a quelle in caucciù c'erano quelle nere, sì, infatti ogni volta che ho cambiato moto, la prima cosa che facevo è cambiargli le manopole. Che poi se ci pensi adesso diventavano tutti pinghinosi, si attaccava a tutto, perché dice a me non ti sfugge, se sei con un cinquantino, perché noi eravamo scemi ragazzini, poi ti mettevi queste marmite rumorose, convinto che la moto camminasse un po' di più, ma guadagnava 2-3 km in più, faceva solo un rumore, noi catabalo cammina, poco però, io parlo dei cinquantini, eravamo troppo contenti, però vedevi a chi va abbia il rumore, gli anni hanno sequestrato noi due i vigili urbani con le moto. Oh, yeah. Vabbè, una volta mi ricordo parecchi anni fa, siamo andati a fare delle immagini sui vicini urbani via Carlo Felice, stavamo facendo le immagini nel garage, ma ti parlo di un bel po' di anni fa, c'era una fila, non ti voglio dire cazzate, ma ci sarà stata una fila di vespini, saranno stati tipo una quarantina. Tutti belli messi a spina di pesce, e un paio di quei vespini, casi non riconosciuti, vabbè, pieni di biuvaro, sai, con gli adesivi, tutta roba sotto sequestro, e sicuramente hanno schiacciato, e niente, ho rivisto le moto di due miei amici all'epoca, mi ricordo un vespino carta da zucchero con la marmita Pinasco. Oh yeah, che ricordi, avanti cra. Ma poi c'era la moda dei vespini celestini chiari con la marmita Pinasco bianca, e ci mettevano poi quel bordo di guarnizione nera nella, dove c'è lo sportellino del coso, poi ci mettevano la cuffia del 50, non ci stava nemmeno tagliare un pezzo, guarda, erano fatte di tutti i colori. Io sono entrato, tu probabilmente ne hai visti pochi, io sono entrato quando, siccome sei di fronte a noi vicino, ci andavo spesso di lì dentro, c'erano più di 3.000 moto, di cui qualche, non dico meno di 700-800 vespe, tra cui c'erano 5 vespe SS, 90 SS Super Sprint, e queste sono scomparse, non si sa dove siano andate a finire, perché sono moto che valgono adesso anche a 15-20.000 euro, te le danno, se ce li hai, con i libretti originali parliamo, e ce n'erano 5 di queste 90 SS, dovevano ritirarle Marcello, la maggior parte di queste moto, molte poi sono andate in paesi africani, un po' ne ha preso Goswin, hanno diviso tutto, c'erano più di 3.000 moto. sotto, guarda, è una cosa spaventosa, sotto dove c'erano le officine della ex Fiat, parliamo, perché poi ne tenevano una quarantina, 30, 20, così, di altre moto buttate in altri posti, ma sotto proprio dove c'è l'officina, parliamo di carrozzeria sotto, che adesso non so, c'era tutto in barrazzi, non c'erano meno di 3.000 moto, tra cui secondo me non meno di 700-800 Vespe. Boh, no, vabbè, io avevo visto praticamente il parcheggio dove c'erano anche le auto di pattuglia, c'erano anche auto ferme, e poi praticamente da una parte c'era questa fila di Vespini, poi il resto non l'ho visto, ti dico la verità, ho visto solo quella porzione lì. Vediamo se Claudio è rientrato, avanti qua. Già Genoghe, fate, già sono qua, che ogni tanto mi allontano da Polaro, che sono ai fornelli, che c'è gente, riprendi il rubi. Ehi, che non brucio a te la ringa, ma niente. Ok, adesso invece no, tu probabilmente li hai visti nel piazzale tutta quella roba, Gianni, se non sbaglio, no? No, era al coperto, hai visto dove c'è... non la scalinata, praticamente c'è l'ingresso da dove entrano e escono i mezzi, c'è quella serrata automatizzata, ero entrato una volta lì.